Esatto, gli angoli. La chiave si trova vicino all'angolo più acuto di questo triangolo. Purtroppo, dalla vostra posizione, riuscite a determinare con certezza solo due angoli. Uno misura 70 gradi e l'altro 50 gradi. Sapendo che la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre 180 gradi, riuscite a calcolare quanto misura l'angolo più acuto tra i tre?